Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Oggi stressante, era una mattina ti incontrai, a cominciare a cantare, non l'ho fatto mai. Stai calma, rispondi se una maniera mi para. Ci stanno te compagne, ma non posso parlare. A prima volta scelta, ma o mare mi portai, ricetta mi fai piangere, tu mi fai male assai. E poi allora in tacchi il momento che passai, a mo su una sirena, ricetta mi guardai. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità e il progresso delle idee mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani, nella persuasione che il pianeta sia la casa comune di tutti gli esseri viventi, chiamati ad abitarla con senso della misura e della responsabilità. È la puntata numero 648, e parleremo della crisi idrica in corso e dei modi per affrontarla, del possibile tramonto delle corride, delle guerre in corso, guerre diverse fra loro ma comunque guerre, in Amazzonia e in Ucraina, della difficile vita degli animali nelle nostre torride città. Gabriele Palloni, il nostro versatile chef, ci proporrà la ricetta della settimana ed è anche il curatore della colonna sonora della puntata. Una bella e buona stava io non la trovai, c'è realtà tutte parte, nessuno mi pensai, non te ne addona che sta piccirella t'affonnai, a mo era una sirena, ricette mi guardai. Cominciamo con una brutta notizia che però potrebbe fare da preludio a un promettente cambiamento. Nella città di El Espinal, in Colombia, il crollo di una tribuna durante una corrida ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di almeno 300. Una tragedia sulla quale le autorità hanno promesso di avviare un'inchiesta. Il crollo ha riguardato almeno 8 palchi dell'arena e non è un caso isolato. Un crollo simile aveva funestato un evento a Sincelejo qualche tempo fa, come ha ricordato il presidente della Colombia appena eletto, ma non ancora entrato in carica, Gustavo Petro. Petro, come è noto, sarà il primo presidente colombiano appartenente alla sinistra. È un cambiamento di rotta che ha generato grandi aspettative sia nel paese sia nella comunità internazionale. Nel nostro piccolo e nella nostra prospettiva troviamo interessante il commento e anzi l'auspicio di Petro espresso subito dopo la notizia del crollo di Al Espinal. Il neopresidente, che entrerà in possesso del suo ruolo il prossimo 7 agosto, ha detto: sollecito i comuni a non autorizzare più spettacoli che possano implicare la morte di animali o persone. Lo sguardo di Petro non si è dunque fermato solo ai problemi strutturali delle arene, ma si è rivolto anche alle attività che vi si svolgono, appunto le corride, con la morte dei tori, una tradizione crudele che Petro, sembra di capire, non dà affatto per scontata. Seguiremo anche noi con attenzione la missione politica del nuovo capo dello Stato colombiano. E allora fammi vedere contento, tanti in te sacca non tenga niente, fammi luce in tasto scuro, fammi credere che non passo di. Fammi luce in tasto scuro, fammi credere che non passo di. Il tema del momento, come ben sappiamo, è la siccità, o meglio, la carenza di acqua potabile. Le piogge scarse d'inverno, l'aumento generale delle temperature, il ritiro di ghiacciai stanno determinando una riduzione strutturale delle disponibilità di acqua dolce, un fenomeno che quest'estate è diventato molto visibile, ma che difficilmente può essere classificato secondo la categoria dell'emergenza, ossia della eccezionalità, poiché il surriscaldamento del pianeta potrà essere rallentato solo in tempi medio-lunghi, semmai, come al momento non sembra, i vari governi decideranno di prendere le decisioni drastiche che sarebbero necessarie, la carenza d'acqua può essere considerata la nuova normalità e la gestione di questa risorsa fondamentale dovrebbe essere conseguente. Quest'estate, già lo vediamo, sarà segnata dai razionamenti e il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nei giorni scorsi ha indicato la scala delle priorità. Prima gli usi domestici, poi l'abbeveramento degli animali, quindi solo al terzo posto l'agricoltura e infine l'industria. È un intervento, quello annunciato dal ministro, di cortissimo respiro, che punta forse a limitare i danni nell'immediato, cercando di non turbare troppo la vita quotidiana e le abitudini conseguenti, ma che non lascia intravedere alcunché come strategia per il futuro. Anteporre l'uso dell'acqua per gli allevamenti all'agricoltura può essere una scelta pressoché obbligata sul momento, coi capannoni pieni di animali reclusi che devono pur bere, ma del tutto impropria se si vuole impostare una strategia di risparmio dell'acqua e di un suo uso più efficiente. Poiché la carenza è strutturale, servono scelte radicali e la progressiva chiusura degli allevamenti sarebbe coerente con un progetto di tutela delle risorse idriche, come ben noto a chiunque abbia nozioni di ecologia. Si tratterebbe, certamente, di ridurre i consumi di carne come effetto collaterale, una via che nessun politico al momento ha il coraggio di indicare, ma che ha ormai le caratteristiche della scelta obbligata, che alla fine sarà fatta, quando l'emergenza idrica verrà affrontata per quello che è, insolubile se non attraverso scelte radicali. Lo ha fatto notare fra gli altri la LAV, Lega Antivivisezione, un'organizzazione animalista, abituata a guardare gli animali per quello che sono, esseri senzienti da rispettare nella loro dignità, e che sopperisce stavolta a una certa afasia del nostro mondo ambientalista, sempre molto cauto, fin troppo, su questi temi cruciali che investono l'economia, la politica, le abitudini di consumo. In pochi ricordano, sostiene la LAV, che uno dei fenomeni che è all'origine di questa situazione, in termini di emissioni di gas serra, e al contempo le aggrava, in termini di consumo idrico, è la zootecnia. La LAV sostiene che la misura più incisiva di risparmio idrico sarebbe molto semplicemente la riduzione del consumo di carne bovina. La LAV si è anche cimentata in un calcolo molto pratico, misurandosi non sugli scenari globali, ma sulla scala locale e immediata. Se ogni consumatore, dice la LAV, decidesse di non mangiare carne di bovino, risparmierebbe, per ogni fettina in meno da 100 grammi, circa 70 litri d'acqua. Se questa scelta venisse portata avanti per tutta la stagione estiva, poniamo 3 mesi, assumendo il consumo di 200 grammi di carne di bovino a settimana, ogni consumatore italiano risparmierebbe 2.800 litri di acqua. Applicando lo stesso ragionamento, per ogni fettina di carne di bovino da 100 grammi in meno consumata dal singolo consumatore, vengono risparmiati 2,5 kg di CO2 equivalente. Questo implica che su un lasso di tempo di 3 mesi, supponendo lo stesso consumo di cui sopra, ogni consumatore può contribuire a ridurre l'emissione di gas climalteranti di 60 kg. Al contempo, conclude la LAV, questo ridurrebbe il numero di animali sfruttati e uccisi per produrre carne. Questi sono argomenti ancora tabù fra i decisori politici e quindi avanti con i razionamenti, facendo finta che la crisi idrica sia un malanno di stagione. Nella torrida estate che stiamo vivendo si stringe il cuore al pensiero della vita che stanno facendo i poveri cavalli costretti nei centri di alcune città turistiche a trascinare pesanti carrozze cariche di persone. Persone curiose delle bellezze artistiche e monumentali, ma di solito indifferenti alla sorte di chi fa muovere le ruote sulle quali poggiano i loro pittoreschi mezzi di trasporto. Come ogni anno è soprattutto a Roma che si discute delle cosiddette botticelle, come lì chiamano le carrozze trainate da cavalli. Qualche anno fa, con l'avvento della sindaca Virginia Raggi, si era pensato che sarebbero state addirittura eliminate dalla scena. Poi la sindaca ha scelto di rinunciare a un progetto così ambizioso, deludendo le associazioni che avevano sperato in una svolta. Ora tocca al nuovo sindaco Roberto Gualtieri, che nella consueta ordinanza estiva riguardante le botticelle ha inserito modeste limitazioni orarie a tutela della salute dei cavalli, non osando andare oltre. L'AV Roma ha reagito sostenendo che l'ordinanza emanata, senza ascoltare le associazioni animaliste, tradisce fortemente le aspettative di una tutela più efficace per i cavalli, che sono costretti a lavorare in condizioni proibitive per via dell'inquinamento atmosferico e acustico, in mezzo al traffico, bardati pesantemente e fiaccati dalla calura. La LAV chiede al sindaco di rivedere le disposizioni e di inserire lo stop alla circolazione per le intere giornate di allerta e non solo per le ore centrali, e chiede anche di sollecitare concretamente ai concessionari del servizio la conversione delle licenze da botticella a licenza taxi, come già previsto dal regolamento capitolino sugli autoservizi pubblici non di linea. Abbiamo visto che il presidente Petro in Colombia, almeno a parole, mette in discussione la corrida e presto sarà chiamato a dare un seguito alle sue affermazioni. A Roma siamo ancora più indietro, le tradizioni vengono accettate così come sono e non si intravede alcun intento di innovazione. Where I wanna be, but I always have no fear. Boy, we come from Napoli, terra mia, terra mia. This is where I wanna be. Na ma chi faccio ma sì. Boy, we come from Napoli. Francesco Panier, attivista e giornalista specializzato in questioni ambientali, oggi ci porta in Amazzonia per raccontarci una storia comparsa fugacemente sui grandi mezzi di informazione, ma che merita di essere inquadrata sul giusto scenario, quello del feroce attacco alla vita selvatica, animale e vegetale in corso in Amazzonia, un tempo definito polmone del pianeta, un polmone, se davvero può essere definito così, che fa respirare la terra con difficoltà sempre più grandi. Sono fuori al bar, prendo sigaretta, tu passi avanti a me, io perdo la testa, hai capelli corti, hai una sciarpetta, io sembro una di quelle che vanno di fretta, ma so sotto sotto, sono una sporcacciona, dillo ai genitori che non torni a casa più. Don Phillips e Bruno Pereira sono stati uccisi in una guerra globale non dichiarata contro la natura e le persone che la difendono. Il loro lavoro contava perché il nostro pianeta, le minacce che subisce e le attività di chi lo minaccia contano. Questo lavoro deve continuare. Sono 5 righe commosse e sferzanti quelle con cui comincia un articolo di Jonathan Watts, uscito sul Guardian il 16 giugno scorso, giorno in cui è stata accertata la morte del giornalista e collaboratore della testata Don Phillips e della sua guida Bruno Pereira, mentre attraversavano la foresta amazzonica in cerca di conferme su attività di pesca illegale. Il giornalista, trasferitosi in Brasile nel 2007, aveva coperto per le principali testate internazionali le più importanti questioni ambientali del tormentato paese sudamericano, dal disastro ecologico causato dal crollo della diga di Brumadinho fino alla responsabilità dell'industria della carne nella deforestazione amazzonica, e poi le attività illegali dell'industria dell'oro e della pesca di frodo, tutte attività che che penetravano anno dopo anno più in profondità nella foresta, lasciate proliferare dalle politiche lassiste del governo guidato da Jair Bolsonaro. Nel 2021 Phillips si è ritirato dal giornalismo freelance per concentrarsi sulla scrittura di un libro sull'Amazzonia. Durante il suo ultimo viaggio è scomparso insieme a Bruno Pereira, sua guida ed esperto conoscitore delle comunità indigene. Il 16 giugno sono stati trovati i suoi resti, insieme a quelli della guida, proprio grazie alle ricerche organizzate dalle comunità locali, mentre nulla hanno sortito quelle tardive e mal organizzate dall'esercito dopo il pressing dell'opinione pubblica internazionale. Probabilmente Dom e Bruno sono stati sorpresi in un'imboscata, mentre cercavano conferme sulle attività di pesca illegale nella valle dello Javari, nello stato di Amazonas. La polizia, dopo una veloce indagine, ha concluso che forse erano coinvolte più persone negli omicidi, ma nessun mandante, ipotesi contestata dalle comunità indigene e dalla famiglia di Phillips, che hanno detto che continueranno a chiedere giustizia. Dom e Bruno sono le ultime due vittime note di una guerra alla natura, come l'ha descritta il Guardian, condotta da imprese estrattive e governi conniventi in diversi paesi del mondo. Secondo la ONG Frontline Defenders, sono 211 gli attivisti ambientali assassinati nel 2021, un numero altissimo che mostra come la frontiera dell'accumulazione continui la sua espansione ai danni di ecosistemi biodiversi e floridi che garantiscono la stabilità del clima, custodiscono pratiche ancestrali e modi di vita in armonia con i cicli ecologici. Invece di comprendere e replicare queste forme di resistenza e di esistenza opportunamente adattate, certo, anche in Occidente, con tracotanza che ricorda la conquista del West o prima ancora le crociate, le forze che guidano lo sviluppo continuano un lavoro sporco di erosione del confine. Per Dom Phillips, per Bruno Pereira e per tutte e tutti coloro che mettono il proprio corpo e le proprie conoscenze a difesa di un altro mondo possibile, non dimentichiamo e organizziamoci, perché in questa guerra alla natura anche noi dobbiamo prendere una posizione. E poi bevi un'aranciata, affacciata alla veranda, guardi i fiori nel cortile, e l'estate un po' ti manca, quella voglia di tornare, dove l'aria non ti stanca, ma che t'hanno miso in capo, siendo a me. Vattene in vacanza con le amiche, trova un po' di pace e poi mi dite, l'anima ha bisogno di dormire, quasi rischia di impazzire, prenditi un aereo e vola, tanta capona arrabosa, passate una mano. Go fa coscienza e quando coce può tutta ma vola ne bandiera, un goppolito militare, vado te contenta che non te vorrei più, ma quando si torna te stai contento pure tu. Ti ricordi il monumento dove ti aspettavo sempre, i concerti in motorino, la paura di settembre sotto i fuochi d'artificio. Quella sera tu mi hai detto scusa ma perché non vieni pure tu. Era l'ansia del momento, non ho fatto neanche in tempo a dirti vengo, che eri già con qualcun altro. Io ci rimango male, poi mi pento e ti perdo. Gli amici dicevano che non era niente quando coce può tutto amare. Vola ne bandiera, un goppolito militare, vado te contento che non te vorrevo più, ma quando si tornato stai contento pure tu. E cocco vuoto pensa già sto cor, quando vena sera scendono tutte culure, con un file voce un regista è tutto qua. La vita che sognavo in fondo ce l'avevo già. Anna è tornata al mare. Anna è tornata al mare. Anna è tornata al mare. Anna è tornata al mare. E cocco vuoto piensa già sto cor, quando vena sera scendono tutte culure, con un file voce un regista è tutto qua. La vita che sognavo in fondo ce l'avevo già. Dall'Amazzonia passiamo all'Ucraina. Da una guerra contro la vita animale e vegetale alla guerra guerreggiata nel modo più classico e disperante, con missili e carri armati. Uno scenario che ci appare quasi anacronistico, in un pianeta sull'orlo di un vulcano, con una catastrofe climatica in atto e ancora alle prese, come quasi ci stiamo dimenticando, sbagliando, con una spaventosa pandemia da coronavirus. Anche gli animali, come sempre, sono vittime dirette della guerra, come abbiamo documentato in questi mesi. Un nuovo triste bilancio sulla guerra in Ucraina è possibile. Ce ne parla Francesco Cortonesi. La moria di delfini a causa della guerra non si arresta. A oggi oltre 3.000 esemplari sarebbero morti nel Mar Nero dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Secondo gli scienziati, ciò è dovuto all'utilizzo continuo dei sonar militari e alle esplosioni che destabilizzano i cetacei, impedendogli di trovare cibo. Inoltre, i corpi dei delfini individuati nelle coste della Bulgaria e della Romania a volte risultano ustionati, come dimostrano alcune fotografie diffuse già nella settimana scorsa. Nel Mar Nero sono presenti tre specie di delfini, il turziope, il delfino comune e la focena comune. Da quelle parti, purtroppo, non hanno mai avuto una vita facile. Basti pensare che all'inizio degli anni 50 del secolo scorso la popolazione era di 1 milione di esemplari, che nel corso degli anni sono stati poi decimati dalle numerose campagne di pesca commerciale. Tra il 1958 ed il 1966 sono stati infatti macellati oltre 440.000 delfini comuni, mentre oltre 365.000 sono stati uccisi nei precedenti 12 anni. Oggi, per fortuna, la pesca è vietata, ma la popolazione non si è mai definitivamente ripresa, a dimostrazione del fatto che spesso non basta neppure sospendere lo sterminio per permettere a una specie di riprendersi. La guerra va quindi a colpire chi è già vittima della nostra specie, seppur per cause diverse. La nostra furia distruttiva ha mille volti. Nessun animale può dirsi al sicuro. Abbiamo parlato di acqua che non c'è, di temperature insopportabili, di vie d'uscita che forse ci sarebbero, ma che non si vogliono al momento nemmeno ipotizzare. Ebbene, tutto questo si traduce, grazie al nostro Gabriele Palloni, in una ricetta che nel suo piccolo può essere di ispirazione a ciò di cui abbiamo più bisogno, una forte spinta al cambiamento. Gabriele Palloni è autore, fra gli altri libri, di Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, da poco ristampato. Sentiamo qual è la sua proposta di oggi. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Fa caldo, ma dobbiamo economizzare l'acqua. Ecco una ricetta bella fresca da servire in alternativa alla tradizionale panzanella che ci farà risparmiare l'acqua di ammollo del pane. Gli ingredienti per 4 persone per la panzanella a cubetti sono 300 g di pane toscano, una cipolla di Tropea, un cetriolo, 2 pomodori costoluti maturi ma sodi, del basilico fresco, un cespo di lattuga romana, il succo di un limone, una tazzina di aceto di mele, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Tagliate il pane a quadretti di circa un centimetro. Sistemate i cubetti in una teglia con della carta forno, salate e passate un filo d'olio sopra. Mettete in forno in modalità ventilata per 10 o 15 minuti a 170 gradi. Quando il pane risulterà ben croccante, togliete dal forno e lasciate raffreddare. Nel frattempo lavate i pomodori e tagliateli a spicchi non molto grandi e metteteli in un colino recuperando il loro liquido. Tagliate la cipolla di Tropea a fette e immergetela nell'aceto di mele. Lavate la lattuga, asciugatela e tagliatela a strisce di circa un centimetro di altezza. Infine sbucciate il cetriolo e tagliatelo a tocchetti. Scolate la cipolla dall'aceto e unite le verdure in una insalatiera. A parte emulsionate il succo di limone ed il liquido dei pomodori che avrete passato con un colino, assieme a due cucchiai di olio extravergine, sale e pepe. Aggiungete i cubetti di pane croccante alle verdure, del basilico spezzato a mano e condite con l'emulsione preparata in precedenza. Mescolate rapidamente e portate in tavola. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Valentina Baronti, Valentina Reggioli, Anna Granata, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni, Zenone Sevilla, Francesco Panier e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.